Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Due giorni fa parlavamo di soldi nelle banche, adesso parliamo invece del commercio dei soldi in maniera illegale, in particolare dell'usura. Lo facciamo ovviamente col presidente dell'Associazione Difesa Consumatori, Carlo Garofolini. Ciao Carlo, ben trovato. Ciao amico, e un saluto a tutti. Anche il Papa è intervenuto in questi giorni su questa piaga di cui abbiamo parlato più volte, ma che sembra davvero non riuscire ad essere estirpata. Sì, qualche giorno fa Papa Francesco ha salutato le fondazioni associate alla Consulta Nazionale Antiusura a Bari, e in questo intervento ha voluto proprio sottolineare come il fenomeno dell'usura è un fenomeno veramente disumano, come l'ha definito lui, per le famiglie, soprattutto perché ha voluto rivolgere proprio una condanna chiara, esplicita e senza ambiguità dell'usura e anche del gioco d'azzardo, sì, quanto sono tutti fenomeni che sfruttano la fragilità delle persone per derubare e soprattutto anche incatenare. Infatti sono due fronti diversi: l'usura, cioè quando si chiede denaro e vengono applicati dei tassi al di là del limite di legge, e poi c'è anche il gioco d'azzardo, di cui abbiamo parlato anche qui più volte, un gioco che crea dipendenza. E anche nel messaggio per la Quaresima Papa Francesco ha lanciato un allarme contro le schiavitù spirituali e fisiche, tra queste appunto anche la dipendenza dal gioco o dalla pornografia. Ma stiamo nell'ambito di queste due piaghe che sembrano, dicevamo, sempre più diffuse. Il gioco d'azzardo addirittura anche su canali legali, oltre a quelli illegali. L'usura invece viaggia su canali paralleli. Sì, guarda, innanzitutto vorrei proprio leggerti una frase che c'era sul comunicato, proprio per capire con quanta incisività il Papa ha voluto denunciare questi due fenomeni. Uno c'era scritto proprio: occorre avere il coraggio per dichiarare che l'usura è un'autentica bestemmia, un oltraggio a Dio e una prostituzione della dignità umana. La seconda è come usare il denaro per crocifiggere le persone in difficoltà. Questo per far capire cosa? Che in un momento di grossa difficoltà, in cui sostanzialmente abbiamo uno Stato che pecca su quelli che sono gli interventi strutturali, che alla fine invece di dare degli stimoli, di sollevare la situazione del nostro Paese, continua a inasprire i contribuenti, le famiglie, cercando in tutti i modi solamente di applicare tasse, sovratasse, sovratasse. Dall'altra, cosa abbiamo? Abbiamo un fenomeno come il gioco d'azzardo, che sostanzialmente è tutelato dallo Stato. Conseguenza poi di tutto cos'è? C'è anche l'usura. L'usura perché abbiamo notato come a rivolgersi a questi strozzini ci sono tantissime imprese che non hanno più credito dalle banche, ma ci sono anche tante famiglie che non arrivano più a fine mese, e peggio ancora anche a non garantirsi più le spese mediche di cui magari devono avere necessità e magari non hanno più soldi per poter sostenere e quindi pagarle. Allora, ci sono delle situazioni limite che vediamo, sono quelle in cui effettivamente c'è dipendenza e uno entra in un vortice dal quale difficilmente riesce a uscire. E il gradino precedente, da quello che vedo, e chiedo anche la tua opinione su questo, sono le scelte. Si vedono nei banchi lotto, nelle ricevitorie, insomma, si vedono tantissime persone di mezza età o comunque, o credo, pensionate, soprattutto donne, da quello che vedo io, che passano lì delle ore e spendono, credo, decine se non addirittura centinaia di euro. Questo forse è anche il segnale dell'assenza di qualcos'altro, di relazioni, penso, se uno passa lì tutto il suo tempo a buttare i soldi. Beh, certo, ormai non esiste praticamente centro commerciale, non esiste attività commerciale, non esiste bar, tabacchino, edicola che non abbia per esempio delle slot machine. Ma noi partiamo anche di un altro fatto, come per esempio lo stesso Stato ha voluto intervenire nei confronti dei comuni che stavano adottando delle precauzioni per contrastare questi fenomeni di gioco d'azzardo, minacciando di trasferire meno denaro nelle casse comunali nei confronti di chi appunto volesse prendere questi provvedimenti restrittivi. Questo per far capire come in realtà se da una parte fanno vedere che c'è una preoccupazione di un fenomeno, dall'altra invece non si vuole assolutamente contrastarlo ma paradossalmente incentivarlo. Poi è chiaro che il fenomeno della crisi induce sempre più persone a giocare, a tentare anche la fortuna, e come hai detto tu, il gioco d'azzardo purtroppo provoca dipendenza e una volta che si comincia veramente da soli non si riesce più ad uscirne, o si fa veramente molta molta fatica. Dall'altro poi la conseguenza anche del gioco d'azzardo, ma come detto anche di questa crisi, c'è l'usura. Questo è un fenomeno che anche qua ci sono degli aspetti molto importanti, dove tutti invitano a denunciare chi rimane vittima di questi strozzini, perché poi oltre a diventare un vortice che ha come unico scopo quello di prelevare più soldi possibile, e che il discorso che tu ti sei rivolto solamente per onorare un debito o richiedere un prestito, alla fine diventa solo un pretesto per essere vittima di queste persone, diventa anche pericoloso nel caso che qualcuno poi intenda liberarsi autonomamente e non denunciarlo alle autorità, perché poi l'usura si sostituisce alle finanziarie, come le finanziarie si sostituiscono alle banche. Eh sì, noi lanciamo un appello disincentivando il gioco d'azzardo. Se proprio volete spendere dei soldi, spendeteli per la vostra famiglia, per voi stessi, ma non tentando la fortuna. Sappiamo, lo dice anche la statistica, la matematica, che le probabilità di vincita sono sostanzialmente molto basse. Ogni tanto sì, c'è qualcuno che vince anche cifre importanti, ma poi la stragrande maggioranza rimane a bocca asciutta e a tasche vuote. Sì. Il sistema non è fatto assolutamente per elargire soldi, ma è fatto per prelevarli. Io dico sempre: non iniziate a giocare, piuttosto fatelo in famiglia, che così può diventare anche un'occasione per socializzare, stare assieme. Ma veramente è un fenomeno da non sottovalutare e soprattutto da tenere lontano tutti, gli anziani da una parte, ma anche i giovani, perché anche i giovani, cominciando anche con internet, a volte si sfugge da quelli che sono dei controlli, si inizia anche per gioco, poi veramente si rischia di venire travolti e risucchiati. Quindi veramente usura, giochi d'azzardo, teniamo anche noi a questo, insomma, denuncia che ha fatto il Papa in questo intervento importante, perché veramente sarebbe ora di affrontarlo seriamente, individuando degli interventi seri che dissuadono veramente tutti a volerlo utilizzare. Ci torneremo, perché purtroppo resterà, credo, per tempo un tema di attualità. Ringraziamo l'Adico di Mestre, il presidente Carlo Grafolini. Appuntamento la settimana prossima con altri due argomenti. Ringrazio te, amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.